Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Domenica 23 dicembre 2012, 50esima puntata di Restiamo Animali, chi l'avrebbe mai detto? 50 volte in onda, in puntate più brevi, come accade per le pillole del giovedì, o più lunghe, come ogni domenica alle 12, 50 spunti per vivere, pensare e agire cruelty free. Perché siamo convinti che riscoprirci animali e quindi fraternamente legati ai viventi non umani sia la premessa per intendere la nostra umanità nel modo più nobile. E in questa puntata domenicale prenatalizia vi offriremo altri spunti di riflessione gastronomici, letterari, informativi e filosofici in un gioco di tradizione e rinnovamento ispirato al rispetto, all'empatia e alla meraviglia delle vite animali. E come vedrete, elevare lo spirito non significa avvilire il corpo. Abbiamo, mi pare, dimostrato nella bellissima serata di domenica 16 dicembre, domenica scorsa, alla prima cena della redazione di Restiamo Animali, dove abbiamo fatto rete con tantissime realtà animaliste, antispeciste e vegan che si sono presentate a un vastissimo pubblico. Abbiamo messo a tavola 120 persone grazie a un manipolo di valorosi ma anche un po' incoscienti volontari, e chi non ci credesse può andare a vedere nel nostro blog restiamoanimali.wordpress.com, dove pubblicheremo una carrellata di foto della serata. In studio oggi con voi Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Lorenzo Guadagnucci, Silvia Vallecchi e Valentina Reggioli. Visti da vicino. Non mangio mai qualcuno che conosco. Ho fatto l'autostop e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò. Vi ricordate Romeo, Ermeio gatto del Colosseo? Non voglio parlarvi degli Aristogatti, ma del rapporto che per gli umani sembra essere molto controverso tra felini e archeologia. L'antefatto è questo. A Roma, nell'area archeologica di Largo Argentina, la seconda più grande area sacra dopo quella del Verano, si è formata nel tempo una vasta e ormai famosissima colonia felina, la colonia dei gatti di Torre Argentina. Lì, gattari e gattare si prendono cura di oltre 250 amici. Se non credete che una colonia felina possa essere una grande attrazione, date un'occhiata al sito internet multilingue www.romancats.com, che in home page recita «Welcome to the site of Torre Argentina, Roman Cat Sanctuary», e al suo interno si definisce come il quotidiano online sui gatti del santuario e sui suoi volontari. Ovviamente in inglese. Lo slogan che si legge sulla brochure dell'associazione di volontari che accudisce la colonia dal 1995 è il seguente. Visitate il luogo dove una volta governavano gli imperatori e ora regnano i gatti. All'interno dell'area è stata costruita abusivamente una piccola clinica veterinaria. Si tratta di un locale che non può ottenere l'abitabilità, in quanto non rispetta l'altezza minima di legge per poterci soggiornare, ma che per chi deve accudire tutti quei gatti rappresenta un supporto irrinunciabile. Improvvisamente, tra fine ottobre e inizio novembre di quest'anno, si è scatenato un putiferio mediatico sulla questione. Il quotidiano Repubblica ha fatto da megafono alla denuncia della sovrintendente ai beni archeologici di Roma, Maria Rosa Barbera, la quale ha affermato che occorre ripristinare la legalità nell'area eliminando ogni elemento abusivo. L'amore per i gatti, ha aggiunto Barbera, non ci faccia perdere di vista la responsabilità degli uomini e il rispetto della legalità. Dopo questi clamori, il caso è approdato in Parlamento, con un'interrogazione al ministro per i beni culturali Lorenzo Ornaghi, affinché chiarisse la questione dell'abuso edilizio nell'area. Tra le voci a favore della demolizione ci sono quelle della vice responsabile cultura del PD, Rita Borioni, e quella dell'ex soprintendente ai beni archeologici di Roma, Adriano La Regina. Una voce fuori dal coro è quella del sovrintendente ai beni culturali del Campidoglio, Umberto Broccoli, che è anche uno scrittore e una voce di Radio Rai 3. Broccoli dice che occorre mediare tra le esigenze, salvaguardando sia le aree monumentali che le colonie feline. Però poi si sbilancia e dice che, in ogni caso, con buona pace di tutti gli intellettuali, considero importanti i gatti e gli altri animali almeno quanto i beni culturali. Anche Alemanno ha preso una posizione netta e precisa e su Twitter scrive: «Mi dispiace per tutti i sovrintendenti, ma io e il mio gatto Certosino siamo dalla parte dei gatti di Roma e guai a chi li tocca». Nel giro di poche ore è stato istituito un sito internet, ovviamente in più lingue, ed è partito un mail bombing da tutti gli angoli del mondo verso le varie sovrintendenze romane. Anche noi di Restiamo Animali abbiamo inviato una mail di protesta, facendo notare che nel settembre del 2001 il presidente del primo municipio, Giuseppe Lobefaro, assegnò ai felini dell'area archeologica di Largo Torre Argentina il titolo di Patrimonio Bioculturale di Roma. Il clamore è stato grande se oggi nello stesso sito internet si legge che la colonia felina di Torre Argentina ha riscosso un consenso mondiale, concretizzandosi in decine di migliaia di email. Il 4 di dicembre scorso il sindaco Alemanno ha visitato la colonia e ha espresso proposte favorevoli e costruttive che ora debbono venire ufficializzate. Gli agguerriti gattari e le agguerrite gattare chiedono di mandare un'altra mail per ringraziare le autorità. È un modo per fare pressione e obbligarle a formalizzare le promesse, perché purtroppo, dicono, non è ancora possibile cantare completamente vittoria. Metteremo nel nostro blog il link da usare per ringraziare il sindaco Alemanno, cosa che anch'io ho prontamente fatto per amore felino, nonostante le mie non trascurabili differenze di vedute rispetto a lui. La cosa che vorrei dire ad Alemanno è che, in nome del decoro, vengono sgomberati non solo cani e gatti, ma anche umani, come è accaduto e accade per gli improvvisati giacigli di poveri, di migranti, di senza fissa dimora e per le fatiscenti baracche dei Rom. Vorremmo che stare dalla parte delle più diverse specie di animali non umani ci aiuti a stare anche dalla parte degli animali umani che non ci somigliano e che facciamo fatica a comprendere. A prega non sto, tutto quello che me va con un gesto ciò. Penso sempre che lavi miei tra ruderi e mausolei. Sapevano già false rispetta e considera da nobili e plebei. Se tanto me da tanto, gode me ne vanto. Perle agli umani, letteratura per la liberazione. Poiché siamo vicini al Natale, ci pare giusto dedicare questa puntata della nostra rubrica culturale a temi religiosi. Vogliamo parlare in particolare di Paolo De Benedetti, un teologo nato ad Asti nel 1927, noto nell'ambiente animalista per la sua vicinanza alle tematiche della tutela e dei diritti degli animali. De Benedetti è un teologo di estrazione cattolica, ma ha dedicato grande attenzione allo studio dell'ebraismo, tanto da essere docente di giudaismo alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale di Milano. Fra i suoi numerosi testi possiamo ricordare quelli dedicati agli amatissimi gatti. È un libro che in realtà è una conversazione con Gabriella Caramore, la conduttrice della rubrica radiofonica di Radio 3 Uomini e Profeti, un testo intitolato Teologia degli animali. dal quale, per far intendere subito qual è lo spirito, il modo, la visione di Paolo De Benedetti, traiamo questa citazione. Io credo, dice De Benedetti, che l'animale, compagno di tante solitudini, di tante tristezze, in misura varia secondo la sua coscienza, affermo e ripeto coscienza, ci accompagnerà anche nell'altra vita e non ci si chieda di spiegare il perché. Possiamo dire che De Benedetti è l'altra faccia del volto che il cristianesimo e la religione cattolica in particolare mostra rispetto alla questione animale. L'istituzione chiesa ha sempre escluso gli animali dalla sua considerazione e non si è mai impegnata per contrastare, limitare quantomeno le stragi che si compiono anche in suo nome, specialmente durante le feste comandate. Quest'altro volto è quello che più ci piace e che ci preme segnalare agli ascoltatori della nostra trasmissione. E De Benedetti è sicuramente un punto di riferimento per quanti, anche nell'ambito della Chiesa Cattolica e della fede religiosa, vogliono mantenere, anzi sviluppare, un'attenzione speciale e particolare verso gli animali, queste grandi vittime delle carneficine di tutti i secoli. Vi proponiamo tre letture da un intervento di Paolo De Benedetti ospitato dalla rivista Oltre la Specie. Si intitola I nostri fratelli minori, per una teologia degli animali. Il primo brano tratta proprio il tema che più ci sta a cuore, cioè l'esclusione di alcune categorie di animali, umani e non, dalla considerazione morale, etica, religiosa. Scrive dunque De Benedetti. La teologia, certo, si deve occupare di tante cose. Se è vero che, come è stato detto, ha dimenticato le donne, non si può negare che ha inflitto la stessa sorte sia a questi fratelli minori che sono gli animali, sia a quei fratelli maggiori che sono gli ebrei. Tanto i fratelli maggiori quanto i fratelli minori sono stati per secoli e secoli vittime del silenzio teologico, anzi, di una cattiva teologia cristiana. In qualche modo hanno avuto uno stesso destino, ingiusto e immeritato. Penso che nessun ebreo possa dolersi che il suo destino, si spera passato, sia paragonato a quello degli animali. Ma è veramente così. L'antropocentrismo dell'uomo, e dentro a questo, l'antropocentrismo del cristiano, ha fatto in modo che sia quelli che oggi vengono chiamati fratelli maggiori, sia quelli che si chiamano fratelli minori, abbiano subito lo stesso destino. Questa è già una prova che occuparsi di loro non è un lusso dello spirito. Karl Barth parlava addirittura di delirio antropocentrico e Lutero spingeva a non essere troppo spirituali perché Dio è altrettanto presente nelle trippe di un topo quanto lo è nel nostro spirito. Il secondo brano ci porta alla considerazione di che cos'è l'uomo rispetto agli altri animali e rispetto a tutto l'ambiente e al mondo terreno. L'uomo, quindi, fin dalla sua creazione, è immagine di Dio. Ma fin dalla sua creazione questa immagine di Dio è collegata immediatamente al soggiogare, in ebraico kabash, e al dominare, in ebraico radah, la terra. Le religioni hanno inteso questo testo come un invito a esercitare una sovranità assoluta e senza confini sulla terra. Ma, rileggendolo con attenzione, si nota che tale dominio e tale soggiogamento devono essere eseguiti da colui che è immagine di Dio. Ossia, il dominio dell'uomo sulla terra deve essere a sua volta immagine del dominio buono di Dio sull'uomo e sulla terra. Il terzo e ultimo brano di Paolo De Benedetti che vi proponiamo affronta proprio la nozione di religione degli animali. Dice De Benedetti: la religione degli animali, non sembri un paradosso, è superiore a quella dell'uomo. Perché l'animale ha un atteggiamento religioso anche verso il suo padrone malvagio, mentre l'uomo non potrebbe avere un sentimento religioso verso un Dio che gli si configurasse malvagio. Tutti conoscono l'episodio dell'asina del profeta Balaam, che mentre portava in groppa il suo padrone si blocca su un sentiero perché ha visto l'angelo del Signore, ovvero Dio, mentre il suo padrone, anche se profeta, non aveva visto nulla. Oggi il problema che abbiamo delineato prende l'aspetto di una domanda che solo apparentemente può sembrare ingenua. Qual è la ricompensa dell'animale? Se la credibilità di Dio è sfidata dalla cattiva situazione del mondo, allora cosa pensare del futuro degli animali? Non si può pensare se non a una vita del mondo che verrà anche per gli animali. A tale proposito si può ricordare l'episodio di Paolo VI, che a un bambino che piangeva perché gli era morto il cagnolino disse: «Non piangere, perché lo ritroverai nella luce del Signore». Il nostro augurio è che la filosofia animalista di questo grande teologo Paolo De Benedetti diventi sempre più diffusa all'interno della Chiesa e fuori della Chiesa. In questo modo ci sembra di poter in qualche modo dare un contributo anche alla celebrazione di questa festa religiosa. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Gentile di oggi vi proponiamo una chiacchierata con il nostro chef di riferimento, Simone Salvini, un giovane talento della cucina naturale cruelty free, formatosi in vari paesi del mondo e diventato famoso lavorando al rinomatissimo ristorante Gioia di Milano. Simone Salvini è anche l'autore del libro Cucina Vegana, uscito per i tipi di Mondadori nell'aprile del 2012, con prefazione di Umberto Veronesi e Pietro Liman. A Simone abbiamo chiesto quali sono le sue riflessioni e le sue scelte rispetto alla proposta ormai logora della ennesima tradizionale carneficina che si consumerà sulle tavole del mondo occidentale in occasione di questo Natale. Mi stai facendo una domanda che vale un'esistenza intera. Io guardo un po' intanto quello che c'è di guasto in me e cerco di ripararlo. Non sono un profeta. E dunque io cerco soltanto di cucinare cose vegane e le posso offrire, le posso soltanto offrire, non le posso imporre agli altri. Ognuno di noi ha un sentiero, ha un percorso da fare. Io ormai da decenni ho deciso di alimentarmi in un certo modo e come tanti ascoltatori della nostra radio. E detto questo, pensare agli altri, gli altri se hanno voglia facciano lo stesso. Tu hai dato già una risposta molto bella, cioè quella che tu guarderai cosa c'è di guasto in te e cercherai di ripararlo. Questo mi sembra anche nello spirito del Natale, di una possibilità di nuova epifania. Certo. Che cosa possiamo consigliare agli ascoltatori golosi che pensano: ma come posso sostituire le uova, come posso sostituire il burro? Tu che consiglio dai? Non è detto che si debba per forza offrire in quei giorni un qualcosa che è una fotocopia brutta, quindi una brutta versione di una ricetta tradizionale. La cucina vegetariana e vegana, queste due cucine possono anche prendere una strada loro, una strada fatta di ingredienti genuini, biologici, e non è detto che si debba sempre per forza andare a rimorchio di altri. Il complesso di inferiorità rispetto alle uova e al burro io non l'avverto proprio per principio. Come si può fare a sostituirli? L'uovo dipende dal contesto, ripeto, nella frittata possiamo usare la farina di ceci, nei dolci possiamo usare dei prodotti come la purea di banana, se uno vuole una sofficità particolare, oppure una giusta miscelazione tra farine e olio di semi, olio di oliva è già sufficiente per avere un pan di Spagna soffice, per niente inferiore a quello classico. L'olio di oliva è un ottimo sostituto del burro. Però ripeto, Camilla, se vogliamo passare questo messaggio di essere semplici in cucina, è importante l'attitudine con cui si cucina, più che la ricetta in sé. Questo secondo me è il futuro anche dell'alta ristorazione. Quindi tu dici non fate un panettone vegano, fate proprio un'altra cosa. Sì, fate un buon pane dolce, anche perché poi quando ti sforzi per fare una ricetta come il panettone, spesso nelle versioni vegane io trovo la margarina, che non so se è molto benefica per la salute. Sì, siamo a posto sul piano etico, va bene, è già un passo importante. Se vogliamo mettere anche la salute nella giusta posizione, dovremmo utilizzare ingredienti al posto della margarina, come appunto dicevamo prima, dei grassi di origine vegetale. Ma utilizzando questi grassi di origine vegetale non è detto che poi si arrivi agli stessi risultati, a dei risultati sovrapponibili al panettone. Questo non vuol dire che sia negativo, vuol dire magari che non sempre bisogna copiare i classici. Possiamo fare un buon pane all'uvetta, un pane fatto con la frutta secca e con un po' di zucchero di canna, oppure un po' di malto o della frutta essiccata messa all'interno. Quindi andare in una direzione anche diversa. Questo pane, se lo vogliamo molto morbido, lo possiamo inserire in un forno a vapore per chi ce l'ha. E la cottura a vapore rende questi prodotti straordinariamente soffici e morbidi. E se uno non ha il forno a vapore, lo può mettere in un cestello cuocipasta, quindi cuocere il pane all'interno di una pentola con cui normalmente si cuoce la pasta. L'importante è che il pane non tocchi mai l'acqua, deve essere sempre sollevato dall'acqua che bolle. Per curiosità, nei ristoranti in cui lavorerai, sia il 25 che il 31, che cosa proporrai? Realizzeremo dei piatti della festa, ma anche abbastanza semplici. Non è il clima adatto per fare, sai, cose strane, anche cose troppo creative. Sarà un cibo goloso, ma anche rassicurante, segno anche dei tempi che stiamo vivendo. È una bella sfida, mi piace stare a lavorare in questi due giorni magici. Dacci qualche spunto come dessert. Sì, dessert, io sono amante delle monoporzioni e quindi creerò dei bicchierini fatti con dei latte vegetali, latte di mandorla, latte di cocco, userò la vaniglia, userò il cioccolato e per legare questi latti utilizzerò la maizena, quindi l'amido di mais. E essendo naturalmente privo di glutine, tutte queste preparazioni saranno adatte anche per le persone che soffrono della celiachia e quindi cercherò di fare delle creazioni dolci, cremose, nel caso del bicchierino al cioccolato anche leggermente intiepidito, quindi magari con un biscotto accanto alle nocciole, un biscotto fatto con farine di camut o delle spezie orientali. Non è una scelta privativa, anzi è una scelta che induce a creare con una grande fantasia, con creatività. L'importante, come ti dicevo prima, mi riallaccio alla risposta precedente, è non presentare le solite versioni classiche, anche perché poi presentando queste versioni è chiaro che il confronto è perdente, perché questi dolci classici hanno secoli di storia, magari decenni di storia. I nostri hanno una storia più breve e dunque dobbiamo essere creativi, fantasiosi, oltre che anche bravi nel trovare le giuste golosità. Questo è molto importante. Non bisogna fare una pasticceria, lasciami il termine, da sfigati, bisogna fare una pasticceria appagante e rassicurante. Rassicurante vuol dire che i sapori siano decisi. È un giorno di festa, giusto? Vogliamo godere anche a livello del palato, oltre che tutto il resto. E poi godiamo. Ottimo, Camilla, è una mia risposta. Godiamo nel palato e godiamo anche poi nel cuore, che nel corpo, perché ci sentiremo più leggeri. Il godimento quel giorno ad essere al centro della questione. Esatto, il godimento spirituale, soprattutto sapendo di avere mangiato cruelty free, di avere mangiato giusto, di avere mangiato naturale. Quello che tu proponi è molto natalizio e anche nello spirito, un ripensamento del sé nel Natale, al di fuori di tutte le tradizioni e le conservazioni e quindi le aspettative di trovare lo stesso gusto che conosciamo da sempre, perché è vero che la cucina è tradizione, ma la cucina può essere anche innovazione. Quindi un invito a un progresso nella concezione dei sapori. Sì, sono d'accordo. E ricordati, Camilla, ricordiamoci che per secoli l'uomo in Occidente, nella penisola mediterranea, era vegano ed era vegetariano per necessità. Per secoli e secoli l'uomo era aderente sicuramente alla tradizione che noi stiamo cercando di ripresentare. Noi lo facciamo per una scelta meramente etica, il nostro antenato invece lo faceva quasi perché era costretto dalle necessità economiche. Noi stiamo tutto sommato anche riscoprendo certi sapori, certi ingredienti. E adesso dobbiamo essere bravi nel ripresentarli in una chiave moderna, in una chiave anche più leggera, leggerita, gioiosa. Quindi tradizione nel senso della sostenibilità di quello che mangiamo, ma innovazione e progresso e ricerca massima del piacere nella scoperta di altri gusti, di altri sapori. It's the lovely. Che è una cosa bella. Che delindo. Sostiene Vallauri. On the road again. Just just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Con il professor Luigi Lombardi Vallauri parliamo oggi di una nuova norma che sta per entrare in vigore. È un aggiornamento del codice della strada che prevede in sostanza l'obbligo di soccorso per gli automobilisti, non solo di persone ma anche di animali feriti o in difficoltà. Professor Vallauri, in che cosa questa norma innova? Innova il codice della strada del 92, già una legge del 2010, che adesso viene ulteriormente concretata da questo decreto ministeriale dell'ottobre del 2012, il tutto concernente come ci si comporta quando si incontra un animale in stato di salute pericoloso o quando addirittura lo si è investito, cioè si è cagione del suo stato. Ed è estremamente interessante vedere che già un articolo 189 impone l'obbligo di occuparsene all'investitore, se ho capito bene, e che adesso i privati sono autorizzati a comportarsi anche in modo contrario alle norme del codice penale quando lo stato di salute dell'animale si può configurare per loro come uno stato di necessità. Io adesso sorvolo sui dettagli, bisognerebbe chiedere a un penalista, non si capisce bene quali categorie di animali. Quello che è sicuro è che tutte queste norme disegnano una tendenza diacronica verso un sempre maggiore riconoscimento della meritevolezza di tutela del soggetto animale. E certamente gli ultimi due decenni hanno propiziato un'espansione impressionante della questione animale proprio in campo giuridico. Chi confronti, operando due sezioni sincroniche, il diritto animale 1990 e il diritto animale 2012 in Italia e in Europa, non può non constatare diacronicamente una fruttificazione forse superiore a quella di ogni altro ramo del diritto. E non c'è dubbio che se la coscienza sociale ha rilievo per l'interpretazione delle norme giuridiche, l'interprete non può non tenere conto di una chiara tendenza nello stesso senso rilevabile sul piano sociologico dell'etica pubblica o almeno largamente condivisa. Il diritto e l'etica storico-positivi sono entrambi diacronicamente sempre più animalisti. Questo produce quello che chiamerei volentieri un diritto lacerato, perché accanto all'animalismo crescente, che cresce quasi più velocemente della coscienza sociale in campo giuridico, accanto a questo animalismo giuridico crescente perdurano come contraddizioni appunto laceranti i maltrattamenti degli animali da reddito o da vivisezione, per cui si potrebbe arrivare, è un paradosso insomma, ma alla situazione di un cacciatore che ha nel bagagliaio un cinghiale o ucciso da lui o agonizzante, e se vede un cinghiale sul bordo della strada ha l'obbligo di soccorrerlo e portarlo a un ambulatorio veterinario o a un centro di protezione. Insomma, è la realtà, cioè l'uomo sta facendo i conti col suo rapporto con gli animali e al momento arrivo quasi a dire non sa che pesci pigliare. Nota, anche i pesci sono animali, i pesci questi inascoltati. On the road again. Just can't wait to get on the road again. My love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit.